Aspetta che vedo Monblano che si sta eccitando. Ha comprato un calciatore, incredibilmente, il Real Madrid. Chi è? A 17 minuti dal termine, comunicato ufficiale del Real Madrid Football Club, Adebayor. No. È un nuovo calciatore del Real Madrid e non sto scherzando. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Splendida Khedira, deviazione Gonzalo, Higuaín, 2-1. L'attaccante entra nella storia, l'ha reso la mamma, e siccome ando qualche esponente della Juventus ha parlato di Higuaín quando era ancora un giocatore nostro, a me sono girati fortemente i coglioni. Io in questo momento voglio evitare di parlare di Higuaín, che è di un giocatore della Juventus. Allora, se lo hanno tutti così. Presidente, concluda, per cortesia. Quali sono le prospettive future per tranquillizzare? Quindi sappiamo già bene qual è il clima che si è venuto a determinare. Noi abbiamo interesse a rinforzare la squadra, a renderla competitiva, a mantenere i programmi che ci eravamo dati, con o senza Bielsa, in questo caso senza Bielsa. Dopo 30 anni Silvio Berlusconi ha venduto il Milan. È ufficiale l'accordo tra l'ex presidente del Consiglio e i rappresentanti di un gruppo di investitori cinesi per la cessione del club rossonero. La notizia è stata confermata poco fa da un comunicato della Fininvest. Olha aí, olha o Gabigol fazendo fila, belo lance, Gabigol, olha o gol! Gol! É do Brasil! Gabriel, o Gabigol! Witzel può arrivare anche prima di giugno, quindi c'è questo particolare importante, questo è importante, che la Juventus pensa anche di poter prendere Witzel a gennaio. Carissimo Pierluigi Pardo, ciao! Come va? Come bene, va? Bene, hai sentito? Ti abbiamo fatto, sì, ti abbiamo fatto con Giorgio De Luca, Giovanni Melchiori, Gianmarco Ferronato, il riassunto di 3 mesi, così se qualcuno è andato in vacanza e non ha avuto la fortuna di seguire il calciomercato, vi ha spiegato tutto noi in un minuto. E io non vedo l'ora che siano le 9 di mattina del 3 gennaio 2017, te lo dico, Perché si è appena chiuso, ma insomma manca già da morire il calciomercato, no? Sì, sì, sì, l'attesa del campionato è stessa il piacere del campionato, roba del genere. Cioè il mercato in certi momenti è più bello del calcio giocato, secondo alcuni. A me, francamente, insomma, a me piace il pallone quando si gioca, quindi da questo punto di vista la parte virtuale, però capisco che insomma ovviamente abbia regalato emozioni, e sicuramente c'è il sogno del tifoso, sicuramente. Il mercato è importantissimo perché poi è la base sulla quale si costruiscono le fortune o le miserie delle squadre, quindi insomma è stato, c'è un mistero ogni anno che sì. Si riducono all'ultimo minuto e poi alla fine molte cose non vanno come dovrebbero andare razionalmente, perché secondo me è per un discorso proprio anche di tempi. Ma guarda, cioè questa storia di Witzel, quella di ieri, è incredibile. Intanto saluto anche Marco Bellinazzo, il professor Bellinazzo. Eccoci, buon pomeriggio. Oggi abbiamo rapito per un'ora per parlare del calciomercato. Per parlare di soldi. I soldi del Napoli, di Higuaín, di chi si è rinforzato. Vi aspetto tutti e due con le vostre pagelle, almeno delle grandi. Adesso ve le chiedo, 800 24 00 24. Le chiedo anche agli amici a casa, siamo in diretta fino alle 15, oppure se volete scrivercele via sms o whatsapp 349 238 6666. Sì, la storia di Witzel è incredibile. Witzel, che ieri mattina davamo tutti per fatto e che invece è saltato. Adesso bisogna capire perché è saltato, se davvero è stato Lucescu a mettersi di traverso perché non aveva il rinforzo per lo Zenit, o se, come pare, insomma, c'è qualcuno che si è fidato delle persone sbagliate per portare a casa questa trattativa. Però Pier, io trovo incredibile la reazione dei tifosi della Juventus, e ce ne sono tanti, eh. Ieri ne abbiamo parlato, erano pochi, una minoranza, perché c'era solo l'ipotesi che potesse complicarsi. Oggi sono tanti a dire che, insomma, il mercato della Juve è sbagliato, perché non si è rinforzata e perché la Juve dimostra che sa comprare solo se deve pagare le clausole, ma lì è facile, sei soldi, vai e paghi. Ma no, io non sono assolutamente d'accordo. Credo che forse chi è il Corriere dello Sport che oggi ha aperto con Juve A, Juve B o tutto sport, non mi ricordo. Corriere. Credo che quello basti per raccontare la forza di questa squadra. Poi la forza di questa squadra c'era anche prima, perché parliamo di una squadra che ha vinto giusto 5 scudetti, quindi è ovvio che non è tutta derivata dal mercato. Però secondo me il mercato è stato buono, molto buono. Sono arrivati i giocatori di grande livello, sono arrivati grandi campioni, sicuramente ci sono, non va dimenticato, ci sono state anche delle partenze, per esempio Morata è un giocatore importante e davanti paradossalmente, non mi ricordo chi lo diceva ieri, forse ne manca uno, nel senso che poi alla fine sì, ai tre, si può pensare di usare Cuadrado e Piazza come esterni d'attacco e quindi metterli nel conto, ma se restiamo alle punte, le punte sono tre, l'anno scorso erano quattro. Sì, signori, stiamo parlando di Dybala, Higuain e Mandžukić. Di cosa stiamo parlando? Cioè... sono tanti tifosi della Juve, insomma, che dicono Witzel rappresentava il banco di prova, e già Witzel, diciamo, non era Matuidi, ma rappresentava il banco di prova della capacità di chiudere un mercato e di non cadere negli errori del passato. Sicuramente, aperto, si discute. Sicuramente rispetto a 15 giorni fa, con il colpo al centrocampo che sembrava molto probabile, se potesse essere Matic o Matuidi o comunque un giocatore di quel tipo, sicuramente un filo di delusione ci può essere, anche se secondo me il ritorno di Cuadrado è molto importante. Appunto ti dico, a me sembra, questo non riguarda tanto la Juve, ma tante squadre, che si riduca veramente troppo tardi per essere quelli che hanno l'ultima parola. E quindi poi ci sono tutta una serie di cose irrazionali che succedono. Ad esempio, non è razionale che Lichtsteiner, che è un ottimo giocatore, sia rimasto da quinto esterno. Poi magari dimostrerà di non essere il quinto, però in questo momento è il quinto. E quindi è in una situazione abbastanza complicata. Stesso discorso per quanto riguarda Fabregas, che è un altro che sarà offerto a mezza Europa e poi alla fine è rimasto. Stesso discorso per quanto riguarda Jovetic. Io ho la sensazione che tante cose poi alla fine fisicamente non ce le fai, perché le variabili sono mille, e quindi basta che qualcuno si opponga, in certi casi addirittura la stessa volontà del giocatore che non vuole trasferirsi all'ultimo minuto, perché saltino gli affari. Se ci fossero 3-4 giorni in più, secondo me tante cose si potrebbero limare. Detto questo, ripeto, il mercato della Juve secondo me è un grande mercato, è stata la migliore in questo mercato, ha cambiato molto e qualche piccola incognita c'è, però insomma, per non vincere, diciamo, le dovrebbe veramente dire sfiga, perché dovrebbero succedere una serie di cose fra infortuni, cali di forma, perché secondo me è nettamente la squadra più forte. Sì, mi date i vostri voti alle grandi, li chiedo anche agli amici a casa, anzi oggi grande spazio agli amici a casa, 800 24 00 24, dai, Juventus, Napoli, Roma, Inter, Milan, facciamo i voti a queste ma 5. Io, Marco, guarda, Bellinazzo, più che dare i voti li metterei in graduatoria in funzione sia della qualità degli acquisti che del rapporto economico, no? Di quello che sono state le entrate e le uscite. Primo posto la Juve, perché per esempio pochi hanno sottolineato il fatto che anche al netto della tassa di minoraiola dei 25 milioni il mercato della Juventus grosso modo si è chiuso in pareggio dal punto di vista di entrate e uscite intorno ai 165 milioni con i risultati tecnici che abbiamo visto. Dopo ci metterei il Napoli, perché anche qui abbiamo un mercato con un piccolo deficit, ma una squadra rivoluzionata, ringiovanita e allargata, anche se ha perso il centravanti capocannoniere lo scorso campionato. Al terzo posto, per gli sforzi economici, metterei l'Inter. Quindi diciamo, questo è il mio podio. Il podio, quindi Juventus, Napoli, Inter. Pier, dammi i tuoi voti. Dai, però sbilanciamoci, diamo i voti. La Juve prima, l'Inter seconda, il Napoli terzo. Ah. Con l'Inter però, che secondo me ha l'incognita legata un po' all'allenatore, ma non all'allenatore nel senso che deve essere scarso, all'allenatore nel senso che tutta la gestione della vicenda con Mancini che molla a metà estate e l'arrivo di De Boer, insomma, non è il massimo, quindi questa è un'incognita. Però come mercato, tecnicamente parlando, Juve prima, Inter seconda, Napoli terza. Allora, io ho dato 8.5 alla Juve, era un mercato da 9, la perfezione non esiste, ma la questione Witzel vale mezzo punto in meno. 7.5 al Napoli, e il giorno che i napoletani lo capiranno, credo sarà un giorno troppo tardi. 7 all'Inter, ma vediamo. 6 alla Roma e 4 al Milan, che insomma credo sia stata la protagonista del mercato più surreale di tutta la Serie A. Vi leggo qualche messaggio che sta arrivando. 349-238-6666. C'è chi scrive: Witzel semplicemente avrebbe rinforzato la Juve B, quella delle riserve, e poi ancora Juve rinforzata per l'Italia, mentre in Europa molto meno. E poi un altro amico: continuate a non firmarvi, Juve ottimo mercato, Inter e Napoli molto buono, Lazio discreto, Milan e Roma e Fiorentina insufficienti. E ancora chi si lamenta del mercato della Juve non capisce niente, la Juve doveva prendere Bruno Perez, non Dani Alves. C'è chi chiede come sono stati spesi, sebbene o male, i soldi della Serie A. Beh, tanti, intanto, 700 milioni 700 circa. Milioni di uscite fanno della Serie A la seconda in Europa dietro l'inarrivabile Premier. Poi magari apriamo un capitolo sulla Premier, però credo che appunto ci sia un grosso risveglio, ci sia l'attenzione ai giovani, ci sia stata anche la volontà di prendere non soltanto giocatori bandiera, quelli che possono come dire far felice il responsabile del merchandising, ma giocatori che nel medio e lungo termine possono incentivare una maggiore passione dei tifosi, anche una internazionalizzazione dei brand. Penso insomma ad alcuni colpi che in questo momento non sono in prima pagina, ma tante squadre insomma hanno comprato all'estero, ma mi sembra che si è puntato più ai giovani che insomma a giocatori che permettevano di risparmiare o di fare diciamo strane triangolazioni su conti correnti sudamericani. Ci sia stata appunto nel complesso penso più oculatezza. Penso per esempio al mercato della Fiorentina, della Sampdoria, del Sassuolo, che hanno chiuso con un attivo di 10-15 milioni rinforzandole. Penso a dei colpi come ha fatto il Sassuolo con Sensi e Mazzitelli a centrocampo, giovani di cui sentiremo parlare. Penso per esempio al mercato del Torino, che è riuscito a rinforzarsi, a ringiovanirsi, facendo una plusvalenza, diciamo un surplus di una trentina di milioni, prendendo un giocatore come Joe Hart, cioè il portiere nazionale inglese. Penso che negli ultimi anni sarebbe stato impensabile. Quindi credo che siano stati spesi bene, che ci sia finalmente una piccola inversione di tendenza, che si veda in fondo al tunnel la luce. Poi una chiaramente lucina, cioè, il campo ci dovrà dire se la Serie A riparte. Guarda, Renzo scrive: la Juve prende troppi stranieri, doveva portarsi a casa Berardi ad esempio. Poi c'è chi scrive: Morata e Pogba non valgono, Higuain e gli altri. Credo stia dicendo che valgono molto di più. 800 24 00 24, abbiamo un'ora a disposizione. Moreno da Milano. Sì, buongiorno. Eccoci. Io sono assolutamente inferocito con il mercato del Juve. Sì. Vi spiego in 10 secondi il perché. E noi dell'anno scorso al centrocampo eravamo contati, adesso abbiamo preso in difesa Benatia, che è il numero uno, in attacco Higuain pagato troppo, ma in mezzo al campo noi abbiamo preso tutte le mattine che Chiesa non si faccia nulla. Sono fino a gennaio abbiamo gente come Sturaro e Asamoah, che in Champions a mio avviso non può nemmeno presentarsi a giocare. Noi al centrocampo siamo assolutamente messi. Hai capito, Pier? Beh, sì, un fondo di verità c'è, un fondo però, un fondo. Però non so se ha finito l'ascoltatore. Io penso che sì, sicuramente davanti alla Juve sia migliorata, anche se numericamente ce n'è uno in meno. Dietro sia migliorata perché Benatia è un titolare che si innesta sulla migliore difesa del campionato, e sicuramente a centrocampo qualcosina manca. È anche vero che la quantità di rotazioni possibili che hai sugli esterni ti dà anche la possibilità di giocare, cioè di limitare questo tipo di problema. Però sicuramente insomma, poi Marchisio fuori, Chedira lo sappiamo è un grande giocatore ma è un po' fragile dal punto di vista fisico, quindi non ti dà proprio la certezza delle 38 partite. Insomma, direi però, scusami, Pier, un fondo di verità c'è, però poi alla fine mi sembra che che ci si possa accontentare. Sì, ricordiamo che è stato preso. Ha fatto un mercato sicuramente sul presente. Ieri facciamo l'esempio della Roma, che il povero presidente Sensi che si svenò per Batistuta nel 2000 per vincere lo scudetto. La Juve ha fatto un'operazione simile, secondo me, al di là del fatto che Higuain ovviamente è ancora almeno 3-4 anni a altissimi livelli, ha preso anche il giocatore di prospettiva come lo stesso Piazza, ovviamente come Pjanic, però è un mercato per vincere quest'anno, per vincere in Europa, quantomeno per fare un salto di qualità ulteriore in Europa. Quindi è un mercato sul presente, non di costruzione. Alberto chiede un voto al mercato del Cagliari e glielo diamo, bel 6,5. Credo mezzo, che sei bel mezzo, sei tra, mezzo le, tra le neopromosse abbia fatto bene, abbia di fatto speso poco rispetto al fatto che ha innestato nella rosa dell'anno scorso già vincente tutti i giocatori di esperienza, Borriello, Padoin, Isla, quindi tutti i giocatori che possono garantire, come dire, un viaggio tranquillo almeno in questo primo anno di Serie A. Sulla Juve io però all'ascoltatore direi che è stato preso anche il centrocampista più forte del campionato dopo Pogba, cioè Pjanic. E sulla questione Witzel io credo che abbia inciso molto nella testa, penso, dei dirigenti della Juve anche questo inizio di campionato in cui sia che dire che siamo a Cor Lemina hanno fatto vedere in partite comunque di peso di essere giocatori di livello e quindi diciamo si è voluto in qualche modo risparmiare rispetto alle pretese dello Zenit. Io credo sia andata un po' diversamente, a Torino non siano contentissimi, ma non i tifosi, non siano contentissimi in assoluto di come è finita ieri con la questione Witzel. Comunque vi aspettiamo, anche con i vostri voti 800 24 00 24, diamo un 6,5 anche al Pescara. Così rispondiamo a un amico che ci ha scritto 349-238-6666. Torniamo subito a traffico. Pam, pam, pam, pam, pam. Tutti convocati. Tutti convocati. I voti del mercato li facciamo fare anche a Luigi De Canio, che saluto. Mister, buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati. Dai, ci dia dacci i voti del mercato, facciamo le grandi, poi se chiedete da casa noi rispondiamo. Dai un bel voto al mercato di Juventus, Napoli, Roma, Inter, Milan. Mettile in fila. Mettiamo il voto più alto, quello della Juve, 8. E naturalmente sarebbe potuto essere un po' più alto se avesse centrato anche quello del centrocampista, avendo perso Pogba. E poi Napoli, che con i suoi giovani con i giovani che ha preso, fatto con i soldi della cessione di Higuain, mantenendo comunque la squadra nel suo insieme, ha dimostrato di poter continuare ad essere competitiva e soprattutto di avere anche di crearsi le prospettive per un periodo piuttosto lungo di permanenza agli alti livelli in Serie A. E poi, anche se probabilmente quindi un 7,5 sarebbe potuto essere un 8 se avesse preso anche avesse avuto in rosa un altro attaccante, perché per la Champions, per il campionato, Coppa Italia, eccetera. Sì, anche se Gabbiadini ho l'impressione che darà soddisfazione ai napoletani, se Sarri troverà il modo di farlo giocare. Sì, su questo non ci sono dubbi. Io poi sono un convinto, lo conosco dai tempi della prima linea della Juve, sono convinto che il ragazzo nel momento in cui ritrovi convinzione e fiducia è in grado di fare grandi cose. No, io mi riferisco al fatto numerico per le tre competizioni. Ne manca uno. Insomma, ecco, secondo me. Quindi sarebbe potuto essere con un mezzo voto in più. Pier, tu hai l'impressione, io ho questa impressione, che venga sottovalutato il mercato del Napoli. Poi per carità la Juve fa un altro campionato, quindi c'è anche questo da tenere in considerazione. Io però ho l'impressione che venga sottovalutata la portata del mercato del Napoli. Ma il Napoli ha una rosa molto più profonda rispetto all'anno scorso, ma non ha più i guai. Questa è la fredda cronaca. Ha preso quello che poteva prendere, ha fatto una scelta da un certo punto di vista inversa a quella della Juve. La Juve ha preso dei giocatori pronti, di grande esperienza, insomma, comunque Benatia, Pjanic, Dani Alves, Higuain, appunto, non soltanto Higuain, sono giocatori pronti. Il Napoli ha preso il giocatore di grande prospettiva, è una scelta sicuramente encomiabile. E negli 11 non so se sia migliorato il Napoli rispetto a un anno fa, però sono molto curioso di vedere la, quanto fosse dipendente da Higuain questa squadra, perché come abbiamo ripetuto spesso già in questo inizio di stagione, sicuramente Higuain ha fatto strabene a Napoli, ha fatto del bene al Napoli, ma il Napoli ha fatto anche del bene a lui l'anno scorso, sì, certamente, costruendogli tante occasioni. Quindi già Milik ha dato delle risultanze molto positive. Il Napoli ha tanti giocatori con gol nei piedi, pronti ad andare in doppia cifra. Quindi sono molto, io, per me il Napoli è secondo nel ranking, davanti alla Roma e poi all'Inter. Questa è la mia idea. Juve, Napoli, Roma, Inter. Io credo che il problema del Napoli sia che c'è una squadra che è fuori competizione in questo campionato, e comunque credo vada sfatato il mito che De Laurentiis ha preso i soldi di Higuain e se li ha messi in tasca. No, il Napoli ha preso quei soldi e ha comprato 6 o 7 giocatori. Il mercato, guardando, facendo una valutazione di cassa, insomma, tra entrate e uscite, molto semplice, si è chiuso con meno 15, quello del Napoli, considerando l'operazione last minute Maximovic, a proposito di ridursi all'ultimo tempo. Povero Maximovic, è stato bloccato in aeroporto all'allarme bomba a Francoforte, farà oggi le visite mediche, insomma anche lì lo scontro Cairo De Laurentiis ha portato proprio quasi a una ripetizione dell'esperienza Soriano, che per fortuna è stata fugata. Direi che invece che il Napoli ha un elemento chiave rafforzato le sue potenzialità, cioè l'anno scorso il quarto cambio a centrocampo era David Lopez, serviva a far legna. Quest'anno c'è Zielinski, che già con Milan ha fatto molto bene, c'è Diawara, c'è soprattutto Rogue. Rogue è indubbiamente meno pubblicizzato un giocatore come Piazza, ma un giocatore che ha grandi prospettive. E Milik, anche per esempio nella partita di Pescara, ha dimostrato di essere un giocatore che si sa ben integrare con gli schemi di Sarri. Ovviamente è giovane, non ci possiamo far abbagliare dai due gol contro il Milan, però è un giocatore che, insomma, che può crescere. Vedremo dove arriva la squadra, che con i soldi che ha a disposizione è riuscita, insomma, a far bene. Io sono convinto che con il passare delle settimane, così come è capitato l'anno scorso, i tifosi del Napoli si riavvicineranno alla squadra. Volevo approfittare ancora di Luigi De Canio, perché non abbiamo completato le pagelle. Allora, tanti amici danno voti all'Inter tra il 6,5 e il 7, dicendo che però, insomma, ci sono evidenti difficoltà dei cinesi, che pure hanno soldi. Io non so se ti piace l'Inter che sta nascendo, che è nata. Non so, l'Inter che è nata mi piace, potrebbe essere più forte di quello che si è dimostrata in queste settimane. Potrebbe essere più forte. Io la vedo impostata in maniera diversa, ed è una squadra che per Blasone deve essere anche più sbilanciata e più votata ad un gioco d'attacco. Con gli uomini che ha se lo può permettere, insomma, ecco. E quindi anche per cercare di riavvicinare i tifosi attraverso lo spettacolo, la ricerca del gol, attraverso l'organizzazione tattica, può essere una squadra anche più spregiudicata, perché davanti, alla luce anche di quelli che sono gli ultimi acquisti, ha una forza già per quelli che c'erano, ma è una forza devastante, insomma, lì davanti. Quindi mi piace il mercato, credo che vada, a mio avviso, insomma, rivista, a mio avviso, sì, un parere del tutto personale, sì, l'impostazione tattica che possa, secondo me, deve essere un po' più spregiudicata, alla luce, come dicevo prima, di un'organizzazione tattica che tenga conto dei necessari equilibri, e questo si può fare, insomma, secondo me. Io poi nei voti di mercato, insomma, un voto alto lo metterei anche al Torino, perché il Toro, ha fatto una bellissima campagna acquisti e al momento, insomma, l'avvio è bellissimo, sia sotto il profilo tecnico-tattico che comportamentale sul campo. non ha, io avevo un po' di timore che avesse problemi dal cambio tra Ventura e Mihajlovic, due modi diversi proprio di impostare la squadra sul campo, e invece la squadra ha risposto alla grande, quindi merito un po' di tutti, quindi darei anche un bel voto, sì, gli diamo un bel 7.5. Grazie mister. Grazie a voi, vi abbraccio, un saluto. Buona grazie, porta. grazie a Luigi De Canio. Guarda Pier, ti leggo alcuni messaggi, c'è chi ci chiede un voto sull'Udinese. Io do un 5, mi sembra siamo andati al risparmio, Pier. Sì, sull'Udinese do un 5, però credo che Iachini sia abbastanza una garanzia. Poi la cosa che stavo dicendo prima, c'è una, se vogliamo, anche un po' un'anomalia italiana, c'è anche in altri campionati questo tipo di soluzione. 20 squadre e 3 retrocessioni significano... A me ti piacerebbero di più le 4 retrocessioni come c'erano una volta. Se non sbaglio, addirittura c'è un periodo che avevamo 18 squadre con 4 retrocessioni. Sì. Perché secondo me è abbastanza facile per le società, diciamo, di fascia bassa cullarsi sul fatto che tanto c'è qualcun altro che retrocede. Cioè, veramente basta poco per evitare i grossi guai. E questo potrebbe essere il caso dell'Udinese, insomma, non mi sembra. Potremmo chiederlo al mister. Poi l'Udinese ha anche fatto investimenti importanti sullo stadio, e quindi ci sta ci sia qualche stagione un po' meno, credo che poi ci sia meno scoppiettante. È una società modello, assolutamente. Credo che in questo momento, poi ceduto, diciamo, il Granada in Spagna ai cinesi, ci sia la priorità, il Watford, sia per questioni economiche che per questioni di prestigio. 800 24 00 24. Adesso rispondo agli amici, diamo anche la pagella del Palermo, dell'Empoli e della Sampdoria, quindi ancora un minuto. Livio da Milano. Livio. Sì, buongiorno. Eccoci. Io volevo proporre un attimo una riflessione sul duo Marotta-Paratici. Sì. E sul ruolo dell'informazione, diciamo, calcistica in Italia, che tende sempre a iperboli, no? Sì. È stato creato il mito Balotelli, che ha fatto più male che bene il ragazzo, perché non aveva le capacità per sopportare come l'idolatria alla quale era stato sottoposto. Ha fatto un po' meno danni a Pogba, che sicuramente aveva dei numeri probabilmente personali migliori di Balotelli, e anche sul duo Parotta-Maratici, che sono sicuramente bravissimi, non mi sembra poi che siano tutta questa grande cosa che si vuole fare apparire. Se guardiamo la campagna di quest'anno, hanno portato a casa 3 grossi nomi, 2 con una pagando semplicemente una clausola. Uno era un parametro 0, quindi non hanno fatto nessuna trattativa. Tutte le trattative che hanno fatto non le hanno portate a casa, sono riusciti a perdere Witzel, come l'anno scorso avevano perso Drexler per fare semplicemente gli sparagnini, 1 milione in più, 1 milione in meno, per cui volevo capire un attimo cosa ne pensate. Io penso, Livio, poi adesso giro la domanda a Pier e a Marco. No ma di fatto, a parte Pogba, chi l'ha portato? Barzagli a 300.000 euro, se non sbaglio. Ma io penso che una società che vince 5 scudetti di fila e triplica o quasi il fatturato, insomma, un amministratore delegato avrà un merito, insieme a fare tutti gli errori che ha ricordato Livio e che sono alcuni sono assolutamente indiscutibili. Ma poi ci sono anche in alcuni casi dei mancati acquisti che sono degli affari. non mi riferisco a Vizia, non lo so, però per dirti, prendi il mercato della Roma, che è stato un mercato secondo me discreto, con dei bei colpi. Però per esempio c'è Alisson Chesney, cioè tu hai speso dei soldi per Alisson perché lo consideri un prospetto, per carità, un giocatore interessante, è uno che non sai dove mettere, onestamente, no? Che rischia di essere un portiere di riserva, forse un lusso per averlo come portiere di riserva, considerato proprio che anche Skorupski, oppure lo stesso Gerson. Insomma, ci sono, secondo me, delle circostanze nelle quali sicuramente c'è il mercato dei grandi intenditori che vanno a pescare dei giocatori, che fanno anche trading, ma a volte c'è anche semplicemente il mercato di chi prende quei 2 o 3 giocatori perché sono quelli che gli servono. Mi sembra un po' il caso della Juve, cioè la Juve sicuramente al centrocampo non ha trovato il colpo, e stiamo tutti dicendo questa cosa qui, non è che la facciamo notare come non facciamo censura sul fatto che con un centrocampista in più la Juve si sarebbe rafforzata ed è una mancanza, però insomma io andrò a prendere il miglior attaccante del campionato, andrò a prendere uno dei centrocampisti più forti che ci sono, ha perso Morata e Pogba che sono due grandi giocatori, ma ha messo un difensore in più come De La Chiesa, è un po' ingeneroso, è un po', eppure Pier, come ti dicevo all'inizio, è anche un po' il sentimento diffuso oggi tra i tifosi della Juve. Abbiamo la borsa, vi devo fermare, ci sono già comunque Piero da Napoli, Massimo da Bologna, da cui ripartiamo dopo la borsa. E sì, insomma, c'è chi ricorda anche Pirlo preso, Coman con quella incredibile plusvalenza, cioè, le hanno fatte sempre Marotta e Paratici queste cose qui, però insomma siamo aperti. 800 24 00 24, borsa, torniamo tra poco, nuove notizie, a più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Sì, la sintesi è in questi messaggi, cioè un amico scrive: il tifoso medio della Juve ha paura di non essere all'altezza della Champions ed è anche comprensibile perché la cessione di Pogba pesa, e questo è un discorso che invece si può fare. Allora, per rispondere agli amici di prima, Palermo io gli do un 4,5 perché sinceramente siamo oltre la scommessa, credo siamo nell'azzardo, e tra l'altro non è neanche entrato l'attaccante che hanno cercato fino all'ultimo minuto. Insufficiente anche l'Empoli, e che insomma è in una fase di transizione, secondo me è insufficiente, 5,5 anche l'Atalanta. Beh, della Sampdoria abbiamo detto prima invece. La Sampdoria sì, si è rinforzata, ha Gianpaolo, un allenatore che sa valorizzare i giocatori, penso al Muriel di quest'anno rispetto a quello delle ultime stagioni, e per di più ha chiuso con un surplus perché è riuscito, di una quindicina di milioni, è riuscita a valorizzare per esempio un giocatore come Soriano, ha venduto bene anche altri giocatori. Resta magari alla Sampdoria il magone di aver perso un giocatore come Mustafi, no? Che nessuno all'inizio insomma pensava, un giocatore importante che è stato poi acquistato in varie tranche ora dall'Arsenal per 40 milioni, sì, sì, sì. In questa follia del mercato per i difensori, quando perde il biglietto della lotteria, no? però credo che insomma il mercato della Sampdoria sia assolutamente un mercato da promuovere. Piero da Napoli. Piero. Pietro. Signori, buon pomeriggio. Io vado un po' controcorrente rispetto a quello che in questo momento è la piazza napoletana. Io sono ben contento del mercato fatto da De Laurentiis, perché credo, anche se in extremis ha preso il difensore che Sarri cercava, perché si addice perfettamente alle caratteristiche del mister. Ha allungato il centrocampo, che l'anno scorso è la riserva di Amrik e di Allan, era David Lopez, che ahimè col calcio ha poco da fare, credo sia un battagliero, ma per competere ad altri livelli c'entra poco di Lopez. Invece adesso con Felici, con Rog, che non lo conosco, non l'ho visto, l'ho visto giocare pochissime volte, però da come ne parlate voi a detti lavori non ho dubbi, e Diawara lo conosciamo. In attacco Milik, io credo che nei prossimi 2-3 anni si sentirà parlare di questo ragazzo, che fisicamente e tecnicamente è forte. Devo chiedere a voi se siete d'accordo con quello che penso io. L'ago della bilancia credo sia stato Higuain, qualora non avesse puntato i piedi e non avesse deciso di andare via, sarebbero un attimo ribaltate le previsioni finali. Il Napoli secondo me era un passo in avanti. Tu dici sarebbe stato addirittura favorito per il campionato se ci fosse stato ancora Higuain. L'avrebbero venduto comunque, e trovare un altro attaccante in giro in questo momento, abbiamo visto la fatica che c'è stata, non si è mosso praticamente nessuno. Ma sai Piero, ti faccio rispondere Pietro. Sì, io dico questo, che il Napoli lo scudetto non l'ha vinto nemmeno con Higuain, che ha fatto un gol a partita, Pierro. Sì, io guarda, invece dico una cosa, che il Napoli era fortissimo l'anno scorso già e secondo me è forte, ripeto, io lo metto al secondo posto nella griglia dietro alla Roma, dietro alla Juve e davanti alla Roma. Detto questo, sicuramente si è molto irrobustito in mezzo al campo intervenendo su un problema che c'era l'anno scorso, che era la troppa distanza, come diceva giustamente Bedinazzo, fra i titolarissimi e le riserve, famoso caso David Lopez, no, come primo cambio di centrocampo. Però è pure vero che quando tu ne prendi tre in quel ruolo lì, forse ne hai presi troppi. E secondo me invece un grande attaccante, al di là del fatto che Milik è un buonissimo giocatore, però qualcosa in più lì davanti, soprattutto considerato lo scarso feeling tattico che esiste fra Gabbiadini e Sarri, me lo sarei aspettato. Magari a costo di non prendere tutti e tre quei tre centrocampisti, Zielinski, Diawara e Rog, che sicuramente rafforzano il centrocampo del Napoli. Non è che il Napoli può giocare in otto a centrocampo, cioè alla fine sempre 4-3-3 giocherà. E quindi, francamente, forse di questi tre acquisti sono un po' tutti. Poi c'è anche Giaccherini, cioè tutti acquisti in prospettiva. Certamente la robustezza del Napoli, cioè la doppia rosa del Napoli, è una realtà. Quindi il discorso che abbiamo fatto prima, Juve A, Juve B, in qualche modo lo possiamo fare anche per il Napoli A, Napoli B, perché c'è un Napoli B che chiaramente è un Napoli giovane, ma ed è Europa League. Ma di grande speranza, perché è una squadra nella quale ci puoi mettere Mertens, ci puoi mettere Gabbiadini, ci puoi mettere Giaccherini, vado così. Ce ne sono. Il tridente è Giaccherini, Gabbiadini, Mertens. Il centrocampo è Zielinski, Diawara, Rog. In difesa puoi mettere Primovic, Koulibaly, insomma, voglio dire, Tonelli, quindi voglio dire, è una buona squadra. Forse, il grande puntero per sostituire Higuain, a costo di non prendere tutti e tre quelli lì a centrocampo, io l'avrei provato a fare. Massimo da Bologna, Massimo. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. A proposito del mercato della Juve, a me sembra che l'insistenza con la quale si è voluto prendere Cuadrado, che l'anno scorso era né più né meno che una variante tattica di lusso, ma una variante, e la sufficienza con la quale si è cercato il centrocampista, secondo me presuppone un cambiamento di modulo, magari non immediato, ma nel medio termine. E questo lo dico anche guardando la partita che ha giocato a Monaco l'anno scorso, cioè secondo me Allegri sa che in Europa bisogna aprire il gioco sulle fasce, cioè quel 3-5-2 è un monolite che in Italia funziona, ma in Europa non, tant'è che non lo fanno in tanti. Ecco, questa è la mia opinione. Può essere, io trovo Massimo, sì. Per quanto riguarda la forza generale della squadra, in Italia si è rafforzata sicuramente. In Europa, secondo me, la fisicità di Pogba a centrocampo in certe partite, per quante critiche si attirava, mancherà sicuramente, anche perché Higuain in Italia ha fatto 5.000 gol. A livello internazionale rimane una scommessa, pur essendo un grande attaccante. Sì, rimane un grande attaccante adesso, poi scommessa no, grazie, comunque Massimo. Pogba è l'uomo che fa sì che la Juve chiuda questo mercato con un saldo attivo di una ventina di milioni, se non sbaglio, quindi... Insomma, questo spiega molto, no? È ovvio che mancherà, è ovvio che sarà un'assenza che potrebbe pesare, però io credo che i dirigenti della Juve abbiano considerato più decisivo, in un'ottica soprattutto di presente, ripeto, non tanto di futuro, ma di presente, cederlo pur di prendere Higuain. Sì. Alla fine lo scambio alla pari o quasi alla pari è quello lì nella Juve. Sì, perché poi tutti fanno di conto, anche quelli della Juve, e anche chi il mercato praticamente non l'ha fatto. Ciao a tutti. Oh, ricordati, sono venuto qui per vincere e questo anno vinciamo tutto. Grazie. Cuore rossonero, Zlatan Ibrahimovic. Tanto vi giuro che è vero, insomma, è lui, è proprio lui, sì. È al Milan, ride, quindi è lui perché ride sempre. L'atmosfera è veramente un'atmosfera che non si vedeva da tempo, dai 5.000 tifosi ieri a Milanello, i 30.000 di questa sera, un'emozione per chi la può vivere, un'emozione credo anche per Ronaldinho. Sì, è un momento speciale, no? Abbiamo deciso di farci male, Luca Serafini, ciao. Buongiorno a voi. Dai, dimmi cosa pensa un attento osservatore delle cose milaniste, insomma il giorno dopo la fine del mercato e tra l'altro il giorno dopo un giorno in cui il Milan è stato accostato a Fabregas, a Jovetic, a Wilshere, a mille giocatori e alla fine insomma ha preso Mati Fernandez. Tutti rigorosamente giocatori non funzionali al modulo che sta adottando Montella, ma questo sarebbe stato e sarà un problema di Montella con Pasalic e Mati Fernandez, che evidentemente meglio di noi saprà collocare in campo. Sul Milan società ormai ci vuole molta ironia, c'è molta rassegnazione da una parte della tifoseria, molta rabbia in certa altra. Le ombre cinesi sono lontane, la volontà e i soldi e la volontà di spenderli altrettanto lontani. E si è continuato con lo stesso timoniere, con gli stessi mozzi, anzi con qualche mozzo nuovo, in particolare da parte di tutti i tifosi milanisti. Un sentito ringraziamento a Pablo Cosentino, che cambierà i ringraziamenti per la resurrezione che ha avuto quest'estate, perché comunque ha aiutato nelle queste estive a guidare la barca tra i porti di Ibiza, Forte dei Marmi e Naviglio milanese, per mettere insieme quest'altra ciurma senza nessun tipo di spregio che Montella dovrà perlomeno dovrà cercare di legare in qualche modo. Sì, l'ha fatto anche con dignità quest'estate. Per la squadra di Montella adesso finito il mercato, è una parola molto grossa, scostata al Milan. Sono finite le operazioni di attracco della scialuppa, adesso bisogna che questi si diano da fare, che sputino sangue, che ci mettano tutto quello che devono mettere, perché in fondo migliorare lo scempio delle ultime stagioni sul campo potrebbe anche non essere difficile. Il tifoso milanista è strano, è atipico, quindi gli basterà vedere impegno, forza, volontà di iniziare. Il Milan è piccolo e debole, se si comporterà da piccolo e debole con il coraggio, spesso la determinazione che i piccoli e deboli hanno anche in più rispetto ai giganti, allora il tifoso è anche disposto a riavvicinarsi e forse qualche risultato ci sarà. In fondo 70 minuti col Torino e intermittenza col Napoli, qualche cosina da questo punto di vista l'hanno consegnata. Faccio una domanda, poi la risposta me la date dopo il traffico, per Luigi Pardo, Luca Serafini, Marco Bellinazzo. Ma ha senso, come fanno anche oggi tanti tifosi del Milan, prendersela con Gagliani per questo mercato che è stato fatto, io dico a budget zero, poi la realtà non è così perché alcuni soldi sono stati spesi, ma certamente senza programmazione, anche perché sono stati budget messi poi man mano, un pezzo te lo davano a luglio, un pezzo ad agosto, non lo so, però mi rispondete dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Vi prego, non infierite, grazie a Silvio e a Gagliani per aver distrutto una società fantastica. Ancora vi odio, far sentire Ronaldinho Ibrahimovic dopo pranzo fa male. Questo è Alberto, 349-238-6666. Pier, su Gagliani la domanda che ho fatto prima. Ma le responsabilità ci sono, perché sicuramente io credo che in questo momento grandi responsabilità non ci siano in questa campagna acquisti. Credo che in questo momento fosse veramente tutto bloccato e francamente non credo che ci siano delle responsabilità così precise. Credo che negli anni scorsi sicuramente il Milan abbia un po', no, si sia un po' accontentato, abbia un po' dormito sugli allori o sul suo straordinario brand. Qui c'è Bagnazzo che ce lo può spiegare nel migliore dei modi. Cioè, il Milan è stato per anni ovviamente vincente, ha quell'origine da Casciavite, come dicono a Milano, no? Umile, popolare, di squadra di popolo, di squadra anche sofferente come è stata a metà degli anni 80, poi ha vissuto questi 30 anni di sbornia clamorosa. Nella parte finale di questi 30 anni ha campato più di colpi estemporanei di grandi giocatori che magari venivano a chiudere la carriera perché il Milan aveva la capacità di fare degli ingaggi di un certo tipo e perché comunque si chiamava e si chiama Milan. Oggi siamo veramente all'anno zero, quindi secondo me in questa campagna acquisti le grandi responsabilità non ci sono, semmai c'è stata qualche anno fa. In più, secondo me, la responsabilità di tutto lo staff dirigenziale rossonero di non aver fatto un discorso un pochino più di prospettiva, magari legato di più ai giovani, con un discorso chiaro e aperto anche in termini di comunicazione ai tifosi, che secondo me, a malincuore, ma avrebbero accettato l'idea che dopo 30 anni o 25 anni di trionfi decidi che investi 3-4 anni della tua vita per ripartire con dei giovani molto forti da zero o quasi. Invece si è cercato sempre il colpo ad effetto. E anche questa campagna acquisti, insomma, il paradosso è che il Milan, se non sbaglio, la chiude in negativo questa campagna acquisti, no? Sì, Marco, credo sì. Di sì, dal punto di vista contabile. C'era, 10, c'era, no? Sì, c'era praticamente un piccolo tesoretto che veniva dal riscatto di El Shaarawy, c'erano i 15 milioni della Caparra, e con questi 25-30 milioni sono stati acquistati vari La Padula, Gomez e il Principito Sosa, insomma, si è chiuso in negativo, si è fatto quello che si poteva. Dopo un'estate ricordiamo, quello dell'anno scorso in cui sono stati investiti 100 milioni, quello che l'Inter ha investito quest'anno. Ma credo che non ci fosse appunto altra possibilità, che la volontà della Fininvest fosse molto ben chiara, avendo altri fronti, altre battaglie da combattere. E paradossalmente le urgenze per il Milan sono diventate meno urgenze, nel senso che da un lato il Milan, non entrando in questi anni in Europa, ha evitato di andare incontro a sanzioni per play finanziario. Questo permetterà alla nuova proprietà, a differenza di quanto appunto potrà fare l'Inter, che invece è sotto sanzione, di andare dalla UEFA e chiedere entro la fine dell'anno un si chiama voluntary agreement, cioè fare un piano quinquennale in cui, in cambio di alcune limitazioni ma non di vere e proprie multe, di sanzioni, si può fare un piano, diciamo, di sviluppo della società. Deve essere un piano industriale credibile, ma questo associato alla riforma della Champions, che garantirà 4 posti dall'altro campionato, beh, insomma, cambia un po' le prospettive e permette magari di fare le cose con più calma, ma l'importante è che si facciano però in maniera profonda, seria e con un discorso che è quello che bisognava fare. E condivido, insomma, Pier, quello che dicevi, bisognava fare qualche anno fa, non si è fatto. Ora ci auguriamo che si risolva il prima possibile, per il bene di tutti, questa trattativa, insomma, che va verso il closing e la firma del contratto finale. Sappiamo al momento che c'è il governo cinese con il suo fondo. Attorno a questo fondo di sviluppo verrà costruita una cordata di imprenditori cinesi, di altre società, sempre comunque collegate al governo, e queste dovranno trovare in un nuovo management la forza e le risorse per rilanciare un brand che comunque resta, per quanto riguarda l'Italia, uno dei più importanti. Speriamo che gennaio arrivi presto. Luca? No, mi sembra una apprezzabilissima teoria, ma teoria pura, perché ovviamente per i tifosi rossoneri d'ascolto scoprire che con grandi motivazioni tecniche sia un vantaggio non fare più la Champions League è ulteriormente deprimente. Anche perché questo tipo di prospettiva non si vede. Io ormai, come tutti i milanesi, sono molto peggio di San Tommaso. Continuo a stupirmi di fronte a un gruppo che investe 700, 600, 800 milioni e non mette uno, non dico un management come stavate dicendo voi, ma una persona del proprio staff per assistere Gagliani, poi continua a fare il mercato, che non abbia responsabilità, parliamone. Cioè, fino a quando Berlusconi prendeva la lista dei primi 10 del Pallone d'Oro e comprava dal quarto in poi, perché i primi 3 ce li aveva già, il mercato potevamo farlo chiunque di noi. Adesso in questa situazione si deve saper fare il mercato, andare a individuare quelle opportunità, sfruttare le segnalazioni degli osservatori, che è un esercito di sordomuti, non per colpa loro nel Milan, perché tanto i rapporti e le segnalazioni rimangono nei cassetti, e si va rigorosamente soltanto dagli amici o presunti tali per fare il mercato. Non è colpa mia se vado in barca a fare il mercato a Ibiza a prendere il no di Musacchio, se faccio figure come quelle con Dybala, con Dogbia, adesso le ultime cialtronate di Fabregas e mica Fabregas, per accatastare trequartisti su trequartisti e poi regolarmente buttarli tutti a mare, da Saponara a Honda, poi l'altra farsa Vasquez, poi questo, cioè è un po' duro a sostenere che non abbia responsabilità, anche perché il management rossonero da 30 anni sono Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Ora, che non ci siano i soldi, poi parliamone, perché comunque stiamo sempre discutendo di quello che rimane al 181esimo uomo più ricco del mondo, ed è una classifica pubblicata da due dirette, poteva tirarle fuori, insomma. Ma sì, ma non è questione, non è che l'equazione soldi vittorio squadra forte funzioni, cioè, possiamo citare mille esempi, è questione di saperli spendere. L'anno scorso, se non andiamo errati, 80 milioni sono stati spesi. Sul perché possiamo andare avanti a parlarne per 3 ore, perché ci possono essere delle vie di mezzo tra Messi e Mati Fernandez o fra Bacca e Cristiano Ronaldo. Ecco, io per esempio quest'anno l'operazione della Padula l'ho sposata e l'ho condivisa, è un giocatore di 26 anni, che ha fame, che ha voglia, che ha rabbia, che ha dei requisiti, al di là del fatto che abbia fatto tanti gol, che sembra uno che ha toccato il cielo con un invito arrivando al Milan, che è un altro aspetto di quelli che mancano profondamente nello spogliatoio del Milan. Ma tutto questo non avviene perché si va dagli amici degli amici, dove ci sono opportunità, non qualità per rinforzare la squadra. Ci sono opportunità, di quale tipo poi possiamo discutere all'infinito. Comunque Luca, e ti saluto e ti ringrazio, la certezza è che Montella ha davanti un Everest da scalare, perché poi fra un mese a lui comunque sarà chiesto di portare dei risultati. Grazie Luca Serafini. A voi, buon lavoro. Grazie. Ciao. Luca Serafini, una battuta sulla Premier, 1,4 miliardi spesi. Beh, è un campionato che solo dai diritti TV incassa all'anno 3,6 miliardi, cioè il triplo della Serie A e della Bundesliga e il più del doppio della Liga Spagnola. È un campionato oggettivamente ricchissimo, un campionato in cui l'ultima in classifica prenderà in termini di diritti TV più della Juventus. Beh, ci fa intendere che siamo quasi in un altro sport. È il campionato del mondo per club, è il campionato più ricco. Per fortuna, finora non si sono visti risultati sportivi analoghi all'egemonia finanziaria, e probabilmente, chissà, anche in questa edizione della Champions, visto che c'è il Leicester, c'è il Tottenham e non le big, non vedremo un'egemonia, non vedremo quattro squadre inglesi in finale. Però nei prossimi anni, visto questo gap enorme che c'è, e non a caso se ne sono lamentate Juventus e Bayern Monaco, che sono state le prime a sponsorizzare la Superlega, dovremo appunto fare molta attenzione, anche perché appunto con panchine affidate ora a Conte, vari Conte, Guardiola, Mourinho, è facile che si arrivi. Assolutamente, quindi attenzione al patrimonio inglese, Brexit o non Brexit, svalutazione della sterlina o meno. Sì, e comunque alla fine hanno fatto da banca per tutti, perché quei soldi lì anche in Italia sono forse quelli che hanno fatto la differenza, perché reinvestiti in tutto il sistema, hanno fatto bene a tutti. Andrea da Prato, Andrea. Sì, ciao. Ciao a te. Ciao. Senti, no, volevo parlare dell'Inter. Sì. Per parlare dell'Inter volevo dare un voto alla proprietà. Vai. Perché quello che si dica, comunque è arrivata, ha tirato fuori 100 milioni contro magari tanti, come dire, non valutazioni buone. La seconda, volevo dire qualcosa sulla dirigenza, perché comunque spendere 100 milioni e rinforzare una squadra che comunque c'ha sempre il solito problema del regista, degli esterni, mi sembra un po' una mancanza forse di competenza. Tutti gli anni sempre la solita storia. Però Pier, io credo che un pezzo di quel secondo discorso vada anche messo in capo alla proprietà, che poi sceglie a chi affidarsi. Sì, io? Sì. Sì, beh, sicuramente, insomma, io credo che ci sia stato uno shock nell'estate nell'azzurra. Uno shock che alla fine è stato l'allontanamento, comunque la decisione di Mancini di mollare, ma che era già nell'aria, e credo che questo sicuramente è un elemento indiscutibile che rende un'incognita la stagione nell'azzurra. Però dal punto di vista dell'investimento sono d'accordo con l'ascoltatore, comunque alla fine mi sembra che qui l'investimento ci sia stato un investimento preciso, e mi sembra che anche dal punto di vista tecnico, insomma... Poi vorrei capire un po' di più, Domenico, il discorso del fair play finanziario, in qualche modo mi però fra un secondo dobbiamo dare la linea Gerra, quindi al prossimo giro chiariamo tutto. Tra l'altro questa sera esce la lista Europa League e avremo molto più chiare già alcune cose, avremo già delle risposte e poi le potremo anche valutare domani insieme a partire dalle 14. Io ringrazio per Luigi Pardo, grazie Piera, domani. Ciao. Grazie anche a Marco Bellinazzo, ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, domani dopo il GR delle 14. No, nel senso, nel delirio dei social network. Nel delirio dei social poverino, network. Sta seguendo 200 notizie. È rimbalzato il comunicato ufficiale del Real Madrid, che risale però a 5 anni fa, perché Real Madrid tesserò a Emmanuel Adebayor.